I lavori di domani di Anna Marino. La digital transformation richiede una mentalità totalmente nuova. La tecnologia, infatti, altro non è che un potente attivatore, come lo furono la stampa, l'energia elettrica o il vapore in altri periodi storici. Non resero solo le macchine più performanti, ma cambiarono radicalmente il modo di vivere, di lavorare, di informarsi, per esempio. Quindi è necessario, parlando di digital transformation, approdare a una cultura che accetti le motivazioni del cambiamento e processi aziendali intuitivi che colleghino persone e sistemi, e la tecnologia in questo senso è in grado di aiutare solo se l'evoluzione richiesta va a toccare i punti nevralgici delle imprese, e questo è un momento chiave per i lavori di domani. Per fare un esempio, in Italia si è vissuto un altro periodo di fervore e innovazione che potrebbe paragonarsi al momento attuale, il Rinascimento, e Alberto Giusti spiega questo suo paragone e le professioni del Rinascimento esponenziali che hanno un futuro. Siamo in un'epoca di grande cambiamento e la determinazione di questo grande cambiamento è data dalla velocità del cambiamento, per cui in un mondo nuovo naturalmente ci sono nuovi lavori. Questo grande cambiamento è determinato dal digital, cioè da questo nuovo elemento che permea un po' tutte le altre funzioni aziendali, per cui ci sono una serie di nuovi lavori, sono i lavori legati al sales and marketing, cioè funzioni aziendali, quelle di sales and marketing. Se ci pensate, i grandi colossi di cui abbiamo evidenza, quindi Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, vi dicendo, ma sul resto la trasformazione digitale non è ancora completamente avvenuta. Quindi in questo momento la domanda pesante è sull'ambito sales e marketing. La prima funzione che è partita è stata al marketing, adesso si arriva a sales e si capisce che i modi di acquistare sono cambiati. In questo periodo, te lo sappiamo a maggior ragione ognuno di noi, perché effettivamente abbiamo una diversa percezione dei comportamenti d'acquisto delle persone, e tutto questo sembra esserci per restare, cioè nessuno di noi ha l'idea che si ritornerà esattamente al mondo precedente. Ed è proprio questo che è importante anche capire come evolveranno le professioni e appunto questo rinascimento in che cosa consiste. C'è stato un periodo storico in cui la carta stampata ha diffuso la conoscenza, ha reso il costo marginale di accesso alla conoscenza molto più basso. Questo accesso alla conoscenza da parte di molte più persone ha fatto sì che una serie di discipline si siano coagulate in passato in cose che possono essere chiamate arti. Arti maggiori, arti minori, queste arti venivano perseguite in bottega perché non c'erano talvolta delle scuole dove insegnate queste arti. C'erano degli artigiani, artisti che coordinavano l'opera di garzoni per una committenza che a volte era una committenza illuminata, a volte un po' meno, e veniva fatto sì per le arti come le percepiamo, quindi pittura, scultura, valoriceria e poi l'arte bancaria, il notariato, l'assicurazione, vi dicendo. Quindi tutto questo fiorire di nuove iniziative ha dato origine a quel movimento che abbiamo chiamato Rinascimento, che ha creato un valore aggiunto per il mondo imbarazzante. In questo periodo quello che sta succedendo è che i massimi online open courses e internet, questa diffusione della conoscenza sta facendo sì che una serie di persone stanno sempre coltivando altre discipline e facendole diventare, io non ho il nome, ma diciamo nuove arti per comodità. E queste si chiamano blockchain, stampa 3D, Internet of Things, programmati advertising e via dicendo. Queste nuove arti in realtà mancano dell'ecosistema delle botteghe, che è un ecosistema che in realtà è stato determinante durante il Rinascimento, per la nascita del movimento e per la creazione di questo valore aggiunto. Quindi quello che ha senso avere nel mondo sono queste nuove botteghe dove degli artigiani artisti, coordinando l'operato di garzoni, io li chiamo digital tailor, possano svolgere dei lavori tra delle committenze che si spera illuminate, cioè senza Lorenzo il Magnifico probabilmente tante opere e tante cose del Rinascimento non sarebbero nate. Qual è la forchetta di guadagno per queste nuove figure, anche a seconda della seniority, diciamo della esperienza, della capacità di apprendere? La forchetta è importante perché in realtà queste nuove figure partono da RAL di 30.000 euro, ma in realtà arrivano anche a fare 200-300 mila euro l'anno. Perché? Perché in realtà sono legati molto spesso ai risultati aziendali, cioè il chief digital officer, cioè quello che governa l'azienda, è un soggetto che negli stipendi di questa geografia è intorno ai 200 mila euro, ma in realtà spesso è legato ai risultati, e quando si è legati ai risultati del digital, con l'elemento esponenziale, a volte arrivano ad avere delle retribuzioni che superano quelli degli amministratori delegati. E infatti sono i nuovi candidati a diventare amministratori delegati, perché governando il digital per fare business naturalmente sono quello che normalmente viene dopo l'attuale amministratore delegato. È molto importante anche capire se ci sono delle indicazioni di formazione anche online e se questa vale per queste figure, e anche se online c'è una ricerca di queste figure, secondo la vostra esperienza, dove si possono trovare le offerte. In questo nuovo mondo, in realtà, quelli che percepiscono le loro certificazioni online hanno un valore più alto rispetto a quelli che lo fanno offline, cioè le persone, i responsabili di recruiting o le varie aziende che assumono più volentieri quelli che hanno fatto un proprio percorso di formazione a partire da strumenti soltanto online, o quantomeno con online la parte di education e poi con la parte appunto di prova in bottega, ma rispetto alle lauree. E infatti i vari Elon Musk, i vari Jeff Bezos hanno dichiarato che le loro aziende non assumono più laureati, ma non perché è un problema essere laureati, è perché in realtà gli attuali percorsi di laurea non hanno questi elementi che sono quelli ricercati dal mondo del lavoro di oggi. Ecco, voi che cosa fate per incentivare questi nuovi lavori? C'è anche, diciamo, un'organizzazione, un'associazione, anche un po' per scambiarsi le idee. Abbiamo creato una community di questi garzoni all'interno di givesforceciu.com, dove questi possono educarsi, lavorare insieme in botteghe, eccetera. Abbiamo creato una community degli artigiani, gli artisti, con il movimento Digital Building Blocks, quindi dove ci sono una serie di manager che vogliono insieme andare verso il futuro, che naturalmente è un futuro dove il digitale permeerà tutte le funzioni, ma non trovano dei posti dove trovare quelli come loro. E quindi con queste community noi cerchiamo di abilitare la transizione al futuro digitale del mondo, perché la verità è che tanto ognuno andrà verso quella direzione lì, il problema è come farlo.